Sì, avevano detto che forse la ripetevano tutta la settimana, invece no, perché io ho provato le 9 di mattina, assolutamente no, c'era un'altra stazione cinese probabilmente, di quella zona lì, diciamo la lingua sembrava cinese, e niente, ho provato i giorni successivi, nulla. Infatti ho fatto bene, mi sono andato apposta la notte per sentirlo meglio, ho detto non sarà impossibile qua, se trasmettono la Padova con 1000 watt chissà quanti disturbi, invece stranamente l'ho copiata quella stazione lì, e devo dire il segnale arrivava anche a 8, altalenante a 8, ma riscendeva a 6, 5, però sempre prevalentemente da 7 a 8 andava, e con l'antenna a Mantova, una 5 ottavi, l'ho messa diretta senza accordatore, perché se metto l'accordatore diciamo dedicato sulla banda degli 11 metri come lo lascio normalmente, con le metti 3000 niente, non ce la faccio, allora l'ho messa diretta senza niente, cavo diretto, e riusciva a prenderlo. Marco con la sua antenna dedicata arrivava a 9 a lui il segnale, infatti mi ha detto cavolo, si è riuscito a ricevere in verticale con un'antenna non stabilita, non indicata per quelle frequenze, infatti sono rimasto stupito anche io. Poi ci ho riprovato il giorno dopo, gli altri giorni sempre zero, c'era questa radio cinese Santiago 5, sì, arrivava ma non c'era più niente, scomparsa. Inserito quando l'hai provato? Sì, con l'accordatore, sì, però lo so, poi ho provato anche con l'accordatore a fargli aumentare il segnale, ma non sentivo nulla, perché c'è questo rumore che fa così, quindi non si sente praticamente nulla, capito, su quelle bande, però non su quello fisso, perché non sto pensando che sia qualche ripetitore, qualche cosa, tutto può essere, perché a volte scompare, tipo quando ci sono brutte giornate, mi aumenta un casino e non mi fa sentire neanche radio capolizia, quelle radio lì, però comunque quando fanno quelle giornate, sempre sereno, non so, più notte, un po' di guerra in mezzo, però si sentono lì delle radio, non so questo disturbo, però proprio la notte che dove c'è questa cosa, non so, un po' trovato, ma non si può niente, erano tutte coperte, quelle radio, quelle AM, praticamente tutte da questo disturbo, non si può nulla, mi dava fatto di questa sentire gli 80 metri, banda laterale, di così. Allora, quando devi fare queste cose, tu lì l'accordatore, metti l'antenna diretta, un po' riesce a lavorare l'antenna, se metti l'accordatore si restringe troppo la banda, per cui non riesce a fare. Infatti io se mettevo l'accordatore inserito, come per dire, lo lascio inserito su quando vado in 11 metri, e in 11 metri vale tre porta a 1 e 1, anche meno le stazionarie, se io metto in banda 80 metri, non ascolto niente, a parte quelle furti, mentre metto l'antenna diretta, c'è un guadagno di segnale spaventoso. Tu quando fai queste prove prova a toglierne l'accordatore, metterlo l'antenna diretta, eliminarlo, ci avrà un tratto che lo esclude sicuramente l'accordatore, e vedi un po', questi rumori possono essere anche rumori elettrici di qualche climatizzatore, qualche frigorifero, qualche cosa elettrica, non so se c'è qualcosa in casa, magari accendete qualche pompa di calore, non lo so, qualche calorifero che c'ha, qualche motorino che non è schermato bene, verifica tutte queste cose. Quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando piove, quando pi voglio fare questa prova capito di staccare l'accordatore e attacco direttamente all'antenna diretta, lo chiedi quindi? Sì, no, l'antenna diretta, se l'antenna è accordata bene, risuona bene, non ce n'è bisogno di accordatore, assolutamente. E il discorso, tu se c'hai l'antenna che non sta risuonando a quella frequenza, tu lo fai solo per proteggere l'apparato, gli abbassi un po' le stazionarie e basta, però non sta rendendo l'antenna come deve rendere. Anche se dice, ho le stazionarie a 1.1, a 3 le porti a 1.1, vuol dire c'è qualcosa che non quadra in quell'antenna. Ok, però possono essere tante cose. La prima cosa è vedere se il problema dipende da casa tua, se c'è modo di alimentarlo con una batteria di macchina a 12 volt, l'apparecchio escludi tutte le lampade esterne, così, perché poi c'è anche la rete di casa tua, molte volte invertire la polarità della presa, cioè la fase con neutro, tu la giri e molte volte risolvi il problema, è già capitato, non so se l'hai visti tu con le lampade a LED che rimangono sempre accese di notte, che sono spente, però te le vedi soffuse, cioè di lì basta invertire la fase e vedi che si spegne completamente, perché dà una leggera tensione, bassa bassa riesce a fare accendere. Possono essere tante cose, anche le lampade a neon, le lampade a LED, tante cose che ti possono creare degli scompensi, anche se non sono direttamente collegate al coso, all'apparecchio. Magari il vicino tuo, non so, la sera accende, ti posso dire, la pompa di calore, magari c'è una lampada a LED che disturba. Su certi tipi di frequenze sono molto, perché sono molto basse come frequenza, può entrare tranquillamente. Sì, questo è vero, ma tutto può essere, perché le scatole le avevo in questi problemi, mi capita molto ottobre, diciamo, mi dà veramente fastidio, perché non mi fa ascoltare nulla, capito, questi giorni sono abbastanza fortunato, ovvero a far ascolto la notte, perché capito, mi piace stare in radio per la notte, perché sono tutta questa mania, capito, per questo, però mi disturba molto, non so perché mi disturbo, perché non posso fare niente, perché mi decido di avere un far ascolto, capito, e non mi incalino. Questa lampada di mio uno una piazzata con il lampadario, quindi che sono molto attento, lui diceva non mi intendo di queste cose, però posso provare a sostituirla, mettere una lampadina, magari quelle che consumano il doppio e vedere se capito il disturbo, cioè cerca di capire se fa un po' di disturbo per la radio, capito, perché non sembra che tutto che si carica più di corrente la notte, perché non è molto performante, infatti io decido questo, no? Per incasinare mi compro la smartest di fondo, la proprietà di lui che sta lanciando il quartiere, quella lì è l'unica a lui, capito, e mi metto quella, ma infatti il calo di lungo, capito, è un po' più forzata, e non si può mettere tutte queste potenze, non c'è niente di lungo per fare l'alfa lima, capito, perché faccio una cosa ben fatta, capito, e infatti mi dare tempo al tempo, adesso mi sta funzionando bene, l'antenna mi trovo che anche bene a parte questi disturbi tutta la notte, però capito, voglio aumentare la distorsione di portata, capito, per avere una cosa fatta bene, questa cosa qui che ne terrò conto di queste cose che mi hai detto, infatti recitarò le mie verifiche, mi piace un po' di prendere, perché l'alimentatore questo me l'ha regalato in scuola, capito, me l'ha portato lui, me l'ha capito, quindi da quando ha attaccato questo il periodo proprio combatta da quando ci sono iniziati questi disturbi, quindi voglio provare a staccarlo, tanto non mi serve, perché l'antenna è fatta per bene, mi serve soltanto quando piove, perché sono onde stazionarie, allora lo posso collegare, ma non mi serve neanche questa cosa, perché me l'ha portato, quindi non avevo un bisogno di un accordatore, e allora il peso col cambio era di passaggio me l'ha acceso, me l'ha regalato, però capito, non lo uso quasi mai, lo uso soltanto io, ogni tanto per ascoltare, più che altro solo per seguirmi la stazione radio, capito, perché che dire, dai, adesso sono le 8, perché devo andare a fare carico batteria, dai, su questo saluto, ti ringrazio per questo, e saluto anche i virtuali amici che sono qui con me, che ce ne sono, io devo scappare, che abbiamo chiamato più a sera, dai, perché ci ascoltiamo, ci sentiamo le prossime, dai, mi ha fatto piacere, riprendi, quelle qui per me. Sì, sì, a me piace ascoltarti. Ok, io rimango ancora in radio, ancora presto notato, non ho neanche fame, ho mangiato abbondantemente a pranzo. Comunque saluto a tutti in casa e ci risentiamo le prossime. Vediamo se è rimasto qualcuno sul canale 10, chi vuole entrare. Ciao, saluti Roberto. Ehi, avanti, chi vuole entrare? Non c'è nessuno qua, Claudio ci sei? Attalino è scomparso, chi è avanti che parla? Non ti capisco, non so se mi senti tu, però ti sento basso, basso in mezzo al QRM, non so dove stai modulando. porto 10? Sì, ciao amico, come hai sentito? Hai cambiato microfono? No, il microfono è sempre lo stesso. Ma la radio è cambiata, cosa hai fatto? Sei più alto del radio? No, non so tanto, forse un mic non è stato più alto. Ma che radio è? 9009? Allora forse hai alzato troppo il volume, troppo il mic, riprova a parlare. Sì, adesso l'ho abbassato un pochettino. Ma è un microfono da palmo o da tavolo? No, mi sento il microfono da palmo. Da palmo c'è però uno. No, adesso va molto meglio, la radio è forte e chiara. Sì, come ti stai dicendo? Stavo sperimentando con un'antenna lì, con 40 metri, vediamo, già l'ho costruito bene. Ah no, da con questa stai andando alla grande, benissimo, 9 più 5 il segnale, radio 5 è pulita, chiara. Sì, l'ultima cosa è che questo qua lo mettiamo sul banco domani, cioè, ogni tanto il tempo è del caro, così vediamo un po' se riusciamo a sistemare questo sneaker qua, perché non mi dice la verità, mi dice che sul banco è un segnale di solare, è impossibile. Probabilmente c'è qualche cosa che non farà. Ti dico, anche io l'ho avuto anche io il 757, ce l'ha come difetto quello dello Smith, lo sai, e due ne ho visto, di cui uno mio, e tutti e due hanno avuto lo stesso problema. Lo Smith è molto molto, cioè tu il segnale lo ricevi bene, tutto pulito, però lo Smith era molto basso, c'è un componente che va in degrado, diciamo, perde di caratteristiche, per cui ti indica un trimerino, mi sembra che sia un coso variabile, come si chiama, una rete induttata variabile. No, non è un condensatore, è una resistenza variabile, è un trimerino, credo che sia, e poi vicino bisogna controllare naturalmente se c'è qualche condensatore o qualcosa magari in perdita. Quelli che ascolti meglio di Sassari siamo io e Claudio, sicuramente, perché siamo molto aperti. Sì, sì, sì. E un altro signore che c'era, ieri mi sembra, Fabrizio mi sembra che si chiamava. Certo, Fabrizio c'ha una postazione che non finisce più, c'ha un'antenna altissima e poi c'ha anche qualcosina dietro, radioamatore, molto molto performante l'impianto suo. Ah, ho capito, ecco perché l'ho sentito bene. Solo che purtroppo come segnale non lo vedevo bene su questo smitter. No, io Alghero l'ho sempre ascoltato bene, non ho mai avuto difficoltà, anche Sintino, tutta quella zona lì io sono completamente aperto, sono un po' penalizzato magari le zone verso andando verso Santa Teresa, Badesi, quelle zone lì, o Castelsardo, sono un po' chiuso, però sino a Sosso, se non riesco a coprirle bene, vabbè, usi lo cielo di fronte, poi mi faccio bene tutta la 131 sino a Coso, andando anche sino a Pefu, qualche volta ascoltato e ho comunicato, sento basso quelli Buduso e quei paesini di lì, Pattada, li sento un po' bassini perché io c'ho il QRM alto, ma non bassi nel senso perché c'ho il QRM alto, se magari riuscissi a tirare fuori il QRM, perché i segnali arrivano a 7 qua, però il QRM mio di media da 6-7 e quando c'è più basso li riesco a ascoltare bene, ma quando c'ho il QRM alto nulla, li sento in mezzo al disturbo. Tutti gli studi, antenne, diciamo, ripetizioni e tutto quantato, tutto fa brodo di roba. Guarda, in questo momento il QRM è poco meno di... di sì e sta andando alla grande, se no di media è 7 e anche di più certe volte. L'8 che quando c'è freddo, nel senso freddo, umidità, pioggia, eccetera, la gente si abbassa, ma in giornate che c'è più caldo lo sento di più. Però grazie a Dio ho una buona ricezione, qua è anche una buona trasmissione, dai, riesco a tirare fuori molti segnali, dove altri magari lo sentono sì, io l'ascolto 8 e riesco a tirarlo fuori comunque. C'ho la Mantova 1, non ho grossi ostacoli davanti, per cui fa più che bene, il cavo è buono, un buon cavo, ma sono 213, per cui anche il cavo non mi dà grossi problemi, magari se avessi avuto un RG58 avrei preso un sacco di sporcizia pure. Sì, dopo il cavo di noi in modo di almeno risolviamo il problema col cavo, così almeno sto più tranquillo io e meno interferenza e contatto, perché oggi ci abbiamo anche un po' di statico qua in zona qua, sarà perché la funzione centrale di una cabina grossa qua vicino. Purtroppo c'è un inquinamento radioelettrico rispetto a 20 anni fa, si è moltiplicato, oltre ai cellulari, le stazioni broadcasting, ci sono stazioni come si chiama, di sicurezza, protezione civile, eccetera eccetera, forza dell'ordine, ormai c'è se tu entri sei in mezzo al coso, in mezzo al campo elettromagnetico, non è come prima che era tutto diverso, prima una stazione radio FM bastavano qualche centinaio di watt, adesso per muoverti devi avere diverse migliaia di watt, se no non va da nessuna parte. Sì. No, ma anche qua almeno dove sono io non ce n'è questo grande disturbo, c'è appena lì di questo Bernardo, senz'altro i palchi qua vicino che ci sono, che magari scaricano di un po' di non risolvi niente. Ritornando a noi, tu mi dove sei? Zona aeroporto, in quella zona lì sei o sbaglio, Mirko? No, sono in zona più che altro verso l'uscita di Aiuto. Ma l'uscita, cosa intendi l'uscita? A Pietraia o dall'altra parte? No, perfetto, zona Pietraia, lì all'uscita di Lì c'era coso, Carlo, un periodo che modulava e l'altro, come si chiama, quell'altro che poi è morto poverino, lo stesso di Alghero. Carlo era un radioamatore, non l'ho più sentito. E c'era quello, non Natalino, si chiamava, era troppo simpatico, poi era una persona proprio di compagnia, grande di età. No, io di Alghero, guarda, c'era un signore che si chiamava, perché è entrato lì, Pietro che è un radioamatore tra l'altro che io non ho mai sentito e poi in Parlamento 27 non l'avevo mai sentito, ieri l'ho sentito per la prima volta e poi c'è questo Roberto che ci siamo risentiti in maniera radioamatoriale con tutti e due e l'ho sentito forse una volta in 27, ma c'era, come si chiama, quello di Alghero, vabbè c'era anche quello Cavallino che poi mi hanno detto lo stesso che è morto, che è stato tanti anni in Germania a lavorare e poi è venuto qua, è ritornato in Italia, c'è un tipo che non ho mai visto di persona, alto, con i capelli lunghi, ricci, lavorava in una cosa, dava la mano nei campeggi, non so se l'hai conosciuto. No, non mi ricordo adesso. Non ce la presente, che lavorava nei campeggi, già non ne conosco gente che lavora nei campeggi, però non mi ricordo. Non mi viene in mente quell'altro, cavolo, ci abbiamo fatto tante di quelle chiacchierate, c'ha un nome tipo Natalino, non mi viene in mente, e stavano di lì alla Pietraia insieme a Carlo, zona vicino al coso, all'ospedale civile, non è più o meno lì la Pietraia, più avanti dai, dall'ospedale civile. C'era un'antenna grande, forse un viaggio un po' di anni fa, non lo so se c'era ancora, non lo so già. Questo Carlo era radiotecnico molto preparato, in gamba poi molte informazioni ci dava, ci avevamo fatto parlo diversi anni fa, erano anni e anni che non lo sentivo e l'altro qualche mese fa, forse il periodo di Covid, non mese, l'anno scorso ci siamo sentiti dopo anni, perché con lui ci abbiamo fatto delle bellissime chiacchierate, perché era uno dei pochi insieme a Claudio Salvero che riuscivamo a sentirlo, gli altri non lo sentivano o lo sentivano male, basso, ed era un radioamatore, è un radioamatore, non so se stia più entrando in frequenza. frequenza amatoriale, non lo so, e c'era un laboratorio ad Alghero, si chiamava Carlo, però non mi dire il cognome, non te lo so dire, non è il solito Carlo, quello anziano radioamatore che c'ha anche un figlio, non c'ha niente a che vedere con quelli. No, se ti ripeto, non lo conosco, come non lo conoscevo quasi tutti, non li conosco io in radio, a parte qualcuno che ci conosciamo di persona, ma su 20 ne conoscerò 3 o 4 di persona, fai 5 dai, in tutto, ma la maggior parte è solo per radio. Tu da tanti anni c'eri in frequenza? Lo vedi tu all'estero? In paesi europei o fuori? No, fuori, cioè c'è l'ultimo punto dell'Africa. E Sudafrica? Ho copiato? No, non ho sentito, perché questo ha un po' di quando quando mi rilascio il pulsante ci vuole almeno un secondo che va in discussione. Ah, così no, ho detto se eri in Sudafrica o prima? No, prima sono andato su Tripoli. Ma dove? Tu mi hai detto polo sud dell'Africa, il polo sud dell'Africa è Sudafrica, non so se poi c'è Repubblica Centrafricana, non so cosa c'è, il... Ah, allora ho detto bene, io ho un carissimo amico che adesso è andato da qualche mese, c'è in Sudafrica l'ambasciata, lavora all'ambasciata, prima era da un'altra parte, in Azerbaigian adesso l'hanno trasferito, deve passare 4 anni in Sudafrica. Un bel posto, un bel posto, molto vasto, popolazione comunitaria si può dire, 100 milioni di persone. Sì, ma mi ha detto la capitale è una cosa esagerata quanto è grande. Il clima è, dice, allucinante, perché di lì non c'è estate e inverno, di lì c'è uno sbalzo termico per dire anche di 20 gradi, di colpo, dalla mattina entri, la notte poi dura poco, ci stava dicendo lui, per dire, ti alzi la mattina ci sono 10 gradi, dopo mezz'ora ce ne sono 30, dice c'è uno sbalzo termico allucinante. No, vabbè, sì, perché non è così grave, dipende dove sei, se sei in pianura, in alta pianura, diciamo che vai lì, allora lì c'è lo sbalzo termico, però se sei in zona corta, diciamo da inverno, non c'è un inverno lì, non è come qua, no. Dicono che c'è un clima tipo mediterraneo, però lì ghiaccio, non se ne vedo, parlo sempre delle cose, però... Mi ha detto che a 2300 metri di altezza, e non mi ricordo la città che mi ha detto, chi c'è grossa città con diversi milioni di abitanti a quell'altezza? Pretoria, Johannesburg, poi sono Kimberley, sono diverse città che sono sull'alta pianura. Pretoria mi ha detto, che è in alto, 2000 metri mi ha detto, ma è una città enorme mi ha detto Pretoria, vero? E c'ha diversi milioni di abitanti, è vero? Diciamo seconda capitale mediterranea del Sudafrica, adesso non lo so se è ancora lo è o meno. Sì, era la capitale legislativa, sì, mentre Johannesburg era capitale amministrativa, così. No, amministrativa è Città del Capo. Ah, Città del Capo, però la città più grande è Johannesburg. Diciamo come città... Solo non è soddisfatto. soddisfatto del posto. Mi ha detto c'è un razzismo al contrario, cioè verso i bianchi, dice una cosa esagerata. Cioè io ho detto com'è di lì a partire? Al contrario, mi ha detto, è esattamente diverso da come me lo immaginavo io. Mi ha detto devi stare attento, i bianchi devono stare attenti perché sono in minoranza. Infatti dice mai a prendere un taxi o cosa del genere, devi sempre o ti prendi la macchina tua o se no vai con qualcuno che ti fa accompagnare, perché dice c'è un sacco di miseria, un sacco di fame e poi i bianchi sono peggio dei neri di 50 anni fa, mal visti. Luca, come si chiamava quello di Alghero che parlavamo sempre, simpatico, che poi è morto? Pinangelo. Pinangelo, non riuscivo a ricordarmi il nome. Tu ci sei andato anche a casa sua, Luca? Ci conferma con tua moglie, conosce, vabbè, c'è sua moglie, c'è ancora. Comunque stai parlando con Mirko di Alghero? Sì, tu l'hai dato ricordi a Pinangelo, Mirko? No, non l'ho conosciuto. Non era la pietraia, Luca, Pinangelo? Sì, più o meno, dai. C'è un attimo, già nel natalino. Mi ha dato un gamma, una persona, mi è mancato, diciamo, poi me l'aveva detto che è morto, era una persona che non gliela fottiva nulla di nessuno, lui si diceva, a me c'ho mille vatti, sto facendo, cioè proprio non aveva nessuno, timore di nessuno, per quello poi era, te lo diceva in faccia quello che doveva dire, era veramente una grande persona. Ma non ascolti a Mirko, Luca? Chi è morto? Sì, basso, lo sento, non so se mi ascolta lui. Mirko, mi ascolti? Sì, ti sento, lo so, sono qua, basso, però ti sento. Chi è morto? Faccio il mio geniale, Mirko. Mirko, cosa stai combinando? Guarda, Claudio, buonasera. In compagnia con Roberto e Luca. E già lo so chi c'è qua, sì. Vedo il tuo segnale però, cosa stai combinando? Oltre il 9 sei, alla macra. Chi è morto? No, stavamo raccontando di Pinangelo, che non mi ricordavo il nome di quello di Alghero, che era una brava persona in gamba. E Pinangelo dice che era morto qualche anno fa, me l'ha detto Luca. Ehi, Pinangelo, c'ho anche dormito a casa sua. C'ho la radio sua qua, io radio, microfono, tutto, c'ho tutta la, diciamo, la parte CB, dai, di 440 che avevo venduto a Rita. Va bene, dai, bianco per me, Mirko, complimenti, sei 9 più 5, rispetto a prima eri Santiago 7, adesso sei 9 più 5. Va bene, evidentemente sta andando bene. Bianco per me, Robert, che c'è roba al forno. Ciao Claudio, a dopo. Ok, no, ho già detto amico, questa radio è bellissima, forte e chiara, 9 più 5 qua arriva, anche se devo dire in questo momento forse ti sei abbassato un pochettino di segnale, amico, poco fa eri un po' più alto, però ti ascolto perfettamente. Luca dice ti tira fuori, basso, però ti ascolta, ti rilancia Luca, avanti Luca. Ehi, con le pinze lo sento, lo prendo con le pinze proprio, perché basso il radio, segnale 1, vabbè, io lo sei la tonavia, no, sono in basso, capito? Comunque io lo ascolto, dai, non so come mi ascolta lui di radio, segnale sicuramente non ne avrò. Come mi ascolti di radio, Mirko, avanti. Ah, ok, dai. E diciamo che molte volte non riusciamo a capirlo, roba, dai. Non c'è problema, magari la sua radio non è, la sento strana, vabbè, avendo segnale basso, anche la radio è bassa, normale, avanti. Mi hanno fatto abbassare io la radio perché era troppo forte, Luca, si è abbassato un po' di segnale, adesso è 9, poco fa era 9,5, Mirko ha abbassato la potenza o hai fatto qualcosa? Ma ti rendi conto, questi artisti del tram, se non c'è la FFP2 non ti fanno salire la mascherina. Sade gli andassi in accaggare tutti i ganti. Mi stavo toccando poco fa un discorso del Covid, non ne parliamo perché mi nervosisco, non ne voglio più sentire, qua Luca, e già ti racconto da quattro trucchi, dai, non me la fotti nulla, basta. Ok, io continuo ad andare per la mia strada e a stare tranquillo, non me la fotti di tutti e di nessuno. Mico, prova a vedere come prima, a rimettere le condizioni iniziali. Adesso siamo su condizioni normali, vado a vedere voi come siamo messi da settimana scorsa. È meglio te lo arriva Luca adesso. No, c'è troppo troppo, non lo so, la radio è un po' strana, un po' cupa la sento la radio. No, no, qua stiamo andando Radio 5, pulita e chiara. Ok, poco fa quando è entrato era troppo forte, gli ho detto abbassa un pochettino, sono distorcibile. Comunque, adesso l'ascolto benissimo. Ok, lasciamo un attimino di bianco se c'è qualcuno che vuole entrare qua. Sul 10, se no riprendi tu Luca. Mi cado tra un po', arriva la bombolino, ma tu non sei vaccinato, Robè, no? Non ne parliamo di questa cosa. No, comunque, i casi stanno aumentando, sai che saranno in tutto il giorno. Ma Luca, lo sai perché stanno aumentando il cazzo? Perché stanno aumentando i tamponi. L'anno scorso facevano 100.000 tamponi e c'erano 20.000 casi. Adesso hanno fatto 800.000 tamponi e ci sono 35.000 casi. E che discorsi c'è? Tu le prove le devi fare statisticamente, non è? Aumentano i casi, ma già cosa aumentano? Si stanno smentendo da soli. Sono aumentati i vaccinati e stanno aumentando i casi. Stanno dicendo tante di quelle questioni. Infatti non le voglio manco babbizzare, Luca, perché sennò stiamo qua a discutere di cose inutili e prese per i fondi. Per i fondi, la gente, qualcuno adesso sta iniziando a farci venire qualche dubbio e speriamo che ce ne venga pure più di uno di dubbi. Ok, chiudiamo qua il discorso perché non mi piace parlare in radio. Mirko, a te il mic. Ok, sì, qua sono due, se vuole provare questa antenna sui 40 metri, è solo per ricezione, non per trasmissione. E vediamo un po' come va, perché sono curioso, ho visto questo, diciamo, disegno su internet, non dico che l'ho copiato, però non voglio provare, solo che faccio caricare quell'altro tutto lo strumento che c'ho e vediamo su quale frequenza, diciamo, è il domande. Ma poi c'è un analizzatore d'antenna, Mirko? Sì, sì, è un nuovo buone, lo conosci il nuovo buone, sono un ottimo tutto lo strumento, forse non è passato. Non ho capito la marca, che marca hai detto? Nano Plus, un vettore analizzatore. No, non lo conosco, ma digitale? Sì, sì, sì, è dai cinesi, forse ne è passato, perché se vuoi comprare uno proprio professionale ci vuole una tuta. No, vabbè, già ce ne sono anche a 200-300, ne sta vendendo uno, un amico qua che ogni tanto entra in radio, mi pare che sia della MFG, lo sta vendendo, fa sino ai 200 MHz, dalle HF alle V, lo sta dando 150 euro ed è un ottimo prezzo, nuovo nuovo. Ma dove l'hai preso? Da AliExpress o da Amazon? Ma l'ho comprato su Italia io, santo, sette euro, e poi ho dovuto comprare anche i cavi separati, visto che ci vanno due cavi e tutti, e poi gli attacchi di BMC ho comprato, poi bisogna comprare gli spazi, però posso dirti che funziona, ti aiuta un sacco per poterli vedere la frequenza di conosco di un antenna. Ma io mi è rimasto lì, ho costruito con questo strumento qua, se no sì sì sì, no, sono interessante, se ti vuoi direttare a costruire l'antenna, se non c'è un analizzatore dell'antenna non va da nessuna parte. Luca, e tu studiando? Ma c'è Roberto all'antenna? Io vediamo se nel frattempo vuole entrare qualcuno. Che ore sono fatte? Aspetta, guardo l'orologio, le 9:15, è passato il tempo veloce ancora, però l'appetito non mi è ancora arrivato, dai, posso stare ancora un pochettino in radio. E quindi, ma non la vuoi usare qua con l'antenna ai 40 metri, Mirko, sicuramente? No, no, solo che no, per ricezione solamente, la vorrei provare come ricezione, perché l'altra mattina mi sono svegliato, filare, andando a filare, è una mezz'onda, che cos'è? No, niente, non può fare quadrato, lo può fare, diciamo, rotondo, diciamo, è un filo elettrico in poche parole, solo che quello che conta è il corollo dove viene attaccato il cavo di antenna, che c'era da, diciamo, devi calcolare i giri di filo di rame da inserire lì per avere la giusta risonanza su una certa frequenza. Sì, sì, ho capito. No, no, volevo capire se era un'antenna verticale, magari con qualche valume o cosa del genere, invece una filare, un'antenna a filare. Quanti metri è lunga? No, no, la cosa è proprio per terra, è rotonda, fa un cerchio, con un quadrato, come vuoi fare. Proprio appoggiata in terra? Sì, sì, a terra, proprio, come vuoi fare. Poi ci sono gambini, qualche ricordo. E riesce a ricevere? Sì, no, c'è stato, prima solo che fa un bacio di lui, già riceve, però su quale frequenza è più rigonante, più rigonante. Ah, devi fare solo la verifica. E la bobina come l'hai fatta? Quante sfide, quanto, che spessore e che distanza più o meno, dai. Che diametro, diciamo? Ah, sono quelli più piccolini, materiale 43. Diciamo tra i due giri dove si attacca il cavo parziale, c'è l'uscita a una estremità del cerchio, si attacchi per lì si va circa 16 stile, dipende quello in base alla potenza dove è risonante, adesso io ho fatto circa 14 stile, adesso vediamo com'è risonante, così posso vedere se aumentare le stile o diminuire, tutto lì. Sì, infatti è abbastanza semplice, se parti da una base scientifica, diciamo, schematizzata, poi basta metterne qualcuna in più o qualcuna in meno e vedi che cambiano completamente e riesci a aggiustare l'impedenza dell'antenna, diciamo. Sì, e poi con questo strumento qua riesci anche a misurare gli induttori Quindi teoricamente puoi misurare anche un altoparlante. No, con quello strumento non credo che si può misurare più fatto per fare l'antenna, perché siccome trasmette un'onda ricevi i dati indietro, capito? No, magari mandandogli un segnale di prova per dire di 1000 Hz, 2000 Hz, vabbè, diciamo, con un coso, generatore di segnali, e poi attaccandolo magari dovrebbe indicartelo l'impedenza giusta del coso, dell'altoparlante, perché non è semplice misurare l'impedenza di un altoparlante. Sì, diciamo che si può, sì, però certo si intende che è molto basso, intende che parte da 50. Poi arriva fino a 900. Ci sono nuovi in giro che partono da 50 Hz e arrivano addirittura a 2 giga, 3 giga. Vediamo Luca, sei rientrato avanti Luca? Niente, e Claudio Sparviero, vediamo se rientra, non c'è nessuno, oggi è più tranquilla. Molte volte ci sono qualcuno che si è lamentato, siete uno sopra l'altro, mi lasci parlare, parlate sempre voi, oggi invece è diversa la musica. No, vabbè, io adesso ti lascio, perché mi trovo a mangiare, io seduto qua parlando, il tempo è passato, mi tocca parlare in contatto, mi grazie per la chiacchiera per Roberto, ci sentiamo in avanti, saluti a tutti che sia sul canale 10. Beh, ti ringrazio anche a te per la chiacchierata, per questo. Ok, no, rimango ancora un pochettino, tanto non ho niente di importante da fare, ti ripeto, fame non è ancora, poi dopo mangio qualcosa di veloce, dai, prima di andare a dormire, dai, ti saluto di nuovo, ti auguro un buon proseguo di serata e ci sentiamo alle prossime. Vediamo se c'è Luca per i saluti o Claudio, avanti Luca. Luca non c'è, Claudio, vabbè, io tengo acceso qua, se c'è qualcuno che vuole entrare, lo facciamo entrare, se no a vedessi, come si dice a Sassari. mettiamo da mezzo di prof. Oh, circolante troppo con non con qualcuno, per quello che stavo alla noia, perché se ho girato il microfono e va pienamente bene, va e andendo la radio. Ehi, alla grande, la voglia che va bene. Capo, cavolo, vanno bene già. Oh, vai che sta bucaria, cavolo, si vede che comunque è bello, bello robusto, cavolo. Migliore che c'è, niente da fare, io è 20 anni chiuso che mi ci sia, forse anche di più. È migliore in assoluto per me, robusto, funzionante, ha una bella timbrica e modulazione con tutte le radio, anche con quelle Icom, con quelle IAS, capito? Quindi già va bene. Ma io comunque ho sentito, no, non mi ricordo se Icom o cos'ama la Surtie, un'altra radio di una persona, non mi ricordo se IAS o Icom, non mi piace. Dico la verità, non mi piace come modula. No, io ho 757 GX2, il TAT System, nuovo, però non c'è la modulazione di questa. Cioè esce, non è male, però il keyboard ce ne mangia tutti, come ieri giocando questo. Ma io ho dato questa differenza, c'è una persona che ce l'ha, che modula, lascia perdere. Sì, ti ripeto, va bene, Anto, va bene, non è che non esce, però non ha niente a che fare con queste, capite? Sì, sì, già lo so. No, io ne ho sentito tante, però queste sono un altro pianeta, è tutta quanta un'altra storia, poi ognuno può pensarla come vuole. Vabbè, io ho già pensato, io ripeto, dal 1986 che uso queste radio e le ho usate tutte, comparazioni, prove, microfoni, cambi, di tutto. Ho provato Icom, IAESU, ho provato anche altri tipi di radio in AM, però come modulo archivo non ce n'è per nessuno. Ah, è proprio vero, E io ti posso garantire che forse sono l'unico a Sassari che può dare queste risposte vere, che le ho fatte le prove, capito? C'è un perché, no? C'è un perché, vuol dire che è così, la realtà è quella, ma poi il risultato anche degli altri è uguale a quello che dico io, non c'è problema. Sì, ma è proprio così, cara. No, non c'è niente da fare. È come la prova che abbiamo fatto assieme a persone molto più competenti di me, è stato riscontrato che il 430 come ricetrasmettitore è molto migliore del 440. Quindi io ho detto la mia e gli altri hanno confermato, perché la realtà meno problematico, è più selettivo, c'è un bellissimo ricetrasmettitore. Quello che le manca, che il 440 c'è in più, a me cosa meno frutti. Non interessa la ricezione della radio e la trasmissione, molto meno rumorosa anche, non solo. Ma dico che di quello non mi lamento. O sarebbe, non lo so, URM è sempre basso. Vabbè, per il Vella, io non ne ho niente col correre, è Santiago Zero, fatti conto, ciao Garietti. Buonasera, voi di tipo Cavarrocci, cazzo sto... Aspetta, vai a cuccia te, vattene a cuccia, mi butti il telefono in terra, vattene a cuccia, mi ha rotto le palle, vattene, cazzo, sei proprio appassionato a me. Sai da poco questa roba non le vado, sto cane, sempre vicino a me che piange, stavo dicendo, in questo programma, non mi ricordo come si chiama il programma, c'era Floriana con la grande fratello e mi ha salutato in diretta. Ma poi. Sì, ah. Non dire che c'è un programma. E non mi ricordo che nome ha. Ma è Saiata. E tanto lì si è fatto carriera, è finito carriera. E poi vabbè, sai che la prima del grande fratello è quella. Sì, da prima è luce, ma... Che beh, che è, un attimo di bianco con tuo figlio, che peggio uova. Ehi, ehi, aspetta, c'è cosa con la spegnere il riscaldamento, cazzo, non ci può più stare qua. Se ti dico c'è un cappetto nudo, mi credi? Gli stai andando a trovare il tutto, cazzo, 26 gradi, c'è cioè, giù, aspetta un attimo, aspetta. Giù è tutto, che è? Avanti, che fischia? Oh, buonasera, Cristian. C'è un segnale bassissimo, sai. Ahi ti sei? Capo, è un po' basso il segnale, ma... Già ti tiro pure lo stesso, magari cambia un po' meglio di me. Capo. Oh, forse sei un po' negativo per me. Capo, capo. Anche a me è basso. Cristian, mi ascolti? Cristian, hai ascoltato Luca? Basso, basso, che quanto? Fai in zona negativa, boh. Cristian, mi ascolti? No, non mi sento. Capo, mi stai dicendo che non ti sente. Perché io non sento Santiago 3. Basso, basso, basso. Non sei in zona negativa. Ma lo sai che in Corsica... cosa? Ha sentito a me e a Claudio, ha sentito. E chi è andato? Mascherato. Mi ha detto che ci ha sentito in Corsica. Dice che io arrivavo a Santiago 4 e tu 2, ci ha sentito tutti e due. Tu Santiago 4 e Santiago 2, così è. Eia! Devo dire, tu sei più forte. Chi è che chiama Claudio? Chi è che ha detto Claudio? Cosa? Cristiane, ma ti credi? Ah, già fatto, prenda la voce. Già, ma non so perché eravamo gli unici che ci ha sentito, non ho sentito un altro nessuno di Sassari, mi ha detto che sono andati in un monte alto lì, mi ha detto che siamo stati gli unici che ci ha sentito. Dipende da quello che stiamo usando, io non lo so. Io ad esempio la casa sua non lo sento, non arriva qua a Vizio. O se arriva arriva basso, basso, basso. Non so cosa c'ha, cosa usa, meglio. Non lo saccio. E Luca dov'è? Sono qua. No, io qui te lo sentivo basso basso. Ehi, vabbè, poi dipende dalla zona. Dipende dalla zona. Capo, lui ci ha sentito, a noi due, in Corsica dice che ci ha sentito. Con un suo amico che ci aveva fuori strada. Buono, non so. Io qua, te l'ho detto, mascherato non... L'ho sentito una volta, ma basso, basso, basso. E avanti mi arrivava qua, non arriva. Non so. Non lo saccio. Beh, dipende un po' quello che stavo usando, magari quei giorni che stavo usando la mantova col barattino, adesso non lo so. Adesso sto usando veramente l'antenna, quella grande con 430, con 140, con le radio più. Gappa di gappa, i sugar, la fanno me la venenti. 25 gradi e mezzo, cosa te ne vai? Cazzo che ne ho, procura. Spento la caldaia, ci va a morire. Ma ci avete voi? A gasolio? No, io ho l'impianto idro, ho il gas e pellet, ho i termosifoni collegati alla caldaia idro. E a buon penna tutto buon fa. Ma allora lo spetta, cazzo non si può toccare il termosifone, cazzo mi viene della fame. A voi a bomboli. Bomboli? No. Sto usando solo pellet e gas, non lo sto usando. L'altra volta tu non ci ne ho preso due io, me le date coso, che c'era tuo padre, detto tra. Già so tutto. Ne ho due adesso, c'ho quella di scorta. Ne ho due, ne ho preso, mica picco. Ma non perché capita come l'altra volta, che è mancata e era tardi, tu hai già chiuso, e allora me la tengo di scorta, capito? Fai bene, lasci sempre uno di scorta, quando finisce scende te la prende, vieni sempre, e non ti manca mai. E si conferma, infatti così faccio. Collego una, parto, vado e me la riprendo, e ce l'ho sempre pronta, però non rimani a piedi, capito? Non rimani a piedi. Infatti la sera che è mancata, cazzo, dovevo fare dice viva il gas, e invece è toccata la moglie la pizza. Perché non c'era gas. Che volte sono stato, che palle. Capo. Tocca a mangiare la pizza, sì, non fai gas. Se uno salta da sempre di scorta, una ammacciata, ce l'ha sempre la bomba, non manca mai. Perché a carburante era un conto, lì è un'altra cosa ancora. Lì va la piglia, tira. Lontano, tu non è vicino, non lo è. Ma il 757 GX2 tu lo conosci, l'hai mai visto? Magari avevo. No. Che bellarello, vero? Ma bello davvero, esteticamente è un pochino più stretto, ma è più alto, però esteticamente è molto più bello. Adesso ti faccio la foto e te la mando. Ma tanto è bello veramente, bello. Tu c'è il pomello grande, tocco matto, che è favoloso. Ciao. Bisogna più che dare, di bucarmi qualche bestia, di che piace a me e a me. Aspetta, faccio la fotografia, te la mando. Ciao. Solo che devo giambare BL, non si sa mai il gatto che si incendia già che cosa ai nobbi. Ma dove vai? Sono convinto di pigliare che bestia. Io sono amante degli amplificatori. Anto, lascia perdere. Li consumano, io ne ho due, grossi, però li uso se serve, se non serve rimangono spenti. Qualcosa, un po' di più mi dovrò inventare, magari averli. A me piacciono molto gli amplificatori, anche esteticamente. Io ti ho mandato la foto, ora ti mando la foto dell'amplificatore mio, che ci ti piace. Ma allora, si assomiglia tantissimo al Kenwood. Ma il sentitore è anche più bello. Più bello, a me piace più del 140, del... Molto bello, molto completo, c'è il profumatore d'antenna, c'è tutto, molto bello, guarda il pomellone, che bello che è cromato. Ma che si gonza, la verità, cioè lo smitter è preciso. Sì, guarda queste due bestioline, una per la 27 e una per F. Quello grigio è HF, quello che è sopra, quello grigio invece è per la 27. io vedi, mi vedi arrabbiato. Chi ci mi piace, chi ci mi piace? Quello non era per la 27, quello era un 600 watt, 650. Quello che è sotto invece è HF, quello è 2 kW. Si butta a non le fate di niente, la 27. Sì, è spolopera, ma non mi interessa.